Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiamo subito dai temi di carattere europeo. Oggi infatti vertice della Banca Centrale Europea e dopo le parole di Draghi lo spread, come ricordavano anche i nostri GR, quindi quanto costa l'Italia indebitarsi rispetto a quanto non costi la Germania, lo spread è calato sotto anche i 260 punti. Per dare un'idea, è il livello più basso dal luglio del 2011. Bene anche l'asta dei bot italiani, quindi l'Italia oggi ha chiesto un prestito attraverso un bot annuale, 8 miliardi e mezzo di euro, e il tasso è calato moltissimo, quindi quanto l'Italia ha dovuto offrire per trovare finanziatori per il suo debito è stato molto meno rispetto all'ultima asta a dicembre. A dicembre offrimmo l'1,45% di interesse, oggi è bastato offrire lo 0,86%, ed è un risparmio non da poco per lo Stato italiano, perché meno devi offrire, meno paghi di interessi, meno soldi lo Stato sborsa. Calcoliamo che, lo ricordiamo spesso, più o meno l'Italia paga solo di interessi sul suo debito, come se una famiglia dovesse calcolare solo gli interessi che paga sul suo mutuo, sul suo prestito, sul prestito ottenuto. Ebbene, noi paghiamo più di 70 miliardi di euro l'anno, dico cifra approssimativa perché cambia ovviamente sulla base dell'interesse che viene offerto. Quando lo spread era 557 offriamo interessi altissimi. E poi l'altra cosa che tratteremo sono le dichiarazioni di Juncker, perché Juncker ha sconvolto. Juncker chi è innanzitutto? Jean-Claude Juncker è il presidente dell'Eurogruppo all'interno del Parlamento Europeo, e ha detto bisogna ritrovare la dimensione sociale dell'Unione Economica e Monetaria, e va bene, con misure come il salario minimo in tutti i paesi della zona euro, altrimenti perderemmo credibilità e approvazione della classe operaia, per dirla con Marx. Apriti cielo, Juncker che cita Marx. Però Juncker ha anche detto altre cose, ha detto che la disoccupazione in Europa è drammatica e che la situazione a Cipro è grave quanto quella Grecia. Più ottimista invece il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, il quale ha detto il tempo delle decisioni di emergenza dovrebbe essere finito, lo scenario apocalittico di una rottura dell'area euro e quindi della fine dell'euro non si è avverato. Però poi ha continuato Barroso, non è momento per compiacersi. Questi dati a livello europeo. A livello invece italiano segnaliamo che continuano a calare i prestiti erogati dalle banche alle imprese. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, quando sostanzialmente commentammo la buona notizia su Basilea 3, che è stata diluita, un insieme di regole a cui le banche devono attenersi per prestare poi soldi, o meglio il tipo di liquidità che possono avere. Però dicevamo, tu puoi fare tutte le regole che vuoi a favore delle banche, se però queste non vogliono prestare soldi e preferiscono investire in bot, non le puoi obbligare. L'esempio solito è quello del cavallo a cui tu metti l'acqua, ma se non vuole bere non beve. Ebbene, meno 3,5% i prestiti delle banche alle imprese, lo dice la Banca d'Italia, a novembre, un punto e mezzo in meno rispetto a un anno precedente, ma il meno 3,5% è per le società non finanziarie, per le imprese. Complessivamente i prestiti calano dell'1,5%, calano particolarmente per le imprese. Ora, per le famiglie calano di meno 0,3%. Per non essere demagogici, bisogna anche notare che da un lato sicuramente le banche dovrebbero fare uno sforzo ulteriore per tornare a essere banche del territorio e smettere di innamorarsi della componente finanziaria, per quanto capisco benissimo che la tentazione di comprare un titolo di Stato sia forte, vista la sicurezza e i vantaggi che dà anche sui criteri di Basilea. Dall'altro va anche detto che molti bancari ci scrivono dicendo: guardate che le richieste che ci arrivano in alcuni casi sono solo di finanziare la cassa corrente, non progetti di investimento, e diventa più difficile valutare un finanziamento del genere perché le banche obiettivamente non fanno beneficenza. E dall'altra parte è anche vero che molte imprese in difficoltà non vanno in banca a chiedere prestiti perché sono loro stesse in difficoltà, non hanno piani di sviluppo. Quindi questo per dire che non è solo, tra virgolette, colpa delle banche. Detto ciò, come va la borsa? Più 0,60% Milano, che anche oggi è la migliore in Europa, meno 0,50 Parigi, meno 0,20 Francoforte, invariata Londra, più 0,07, non poteva essere altrimenti, e Dow Jones meno 0,01. Al tecnico non piace la mia battuta, solo 0,07 a Londra, non la farò più. Ancora i temi che tratteremo, quindi Draghi, Juncker, Barroso e le posizioni europee da un lato, dall'altro anche una vicenda che a noi sta particolarmente vicino a cuore, vista la campagna Disperati Mai che abbiamo portato avanti con Oscar Giannino e con tutta la radio prima dell'estate. In molti casi ricorderete che alcuni degli imprenditori disperati che ci scrivevano e minacciando soluzioni anche drastiche, inaccettabili perché irreversibili, sottolineavano come avessero dovuto chiudere l'impresa o l'azienda, la società, nonostante vantassero crediti con la pubblica amministrazione, nello specifico soprattutto con le ASL, con la struttura sanitaria. Ebbene, oggi, è notizia di oggi, un imprenditore è stato assolto per l'imprenditore della Sintea Plustec di Assago è stata assolta per non aver pagato le tasse, cioè di fatto evaso il fisco. Perché? Perché l'imprenditore diceva: io non pago, non posso pagare tasse finché non vengo pagato dalle ASL verso cui vanto moltissimi crediti. Il tribunale ha dato ragione. Ha dato ragione perché sostanzialmente ha considerato che i mancati pagamenti della pubblica amministrazione siano come causa di forza maggiore, sia come causa di forza maggiore che con assenza di dolo. E cioè è stato stabilito che in sostanza se la pubblica amministrazione non paga c'è una forza maggiore e non c'è un dolo nel non pagare le tasse. Beh, mi sembra un minimo tratto di civiltà. E sapete la lotta che facciamo contro l'evasione fiscale, che è inaccettabile comunque senza se e senza ma è altrettanto inaccettabile che ci siano 50-60 miliardi di crediti che lo Stato e le pubbliche amministrazioni locali non riescono a dare agli imprenditori. Almeno scaricateli come credito d'imposta. Questo vorrebbe non solo la certezza del diritto, ma uno Stato etico veramente, e che inizia lui a essere principio etico e a dare l'esempio e non il contrario. E ne parleremo con l'imprenditore, anche perché c'è un altro caso che riguardava la comunità Saman che si è mosso nella stessa direzione. Anche qui ASL che non pagano e il presidente di questa comunità che dice: signori, io non posso pagare il fisco finché non vengo rimborsato da servizi che ho già erogato dalle ASL italiane. Lo Stato è uno, e allora si mette d'accordo con se stesso. 349-238-6666 per i vostri sms, le altre notizie in breve. Restiamo sulla borsa. Bene oggi le banche, come sempre in questi giorni, ma anche e soprattutto Mediaset, che lo diciamo ogni volta senza commento. Da quando il 13 dicembre Berlusconi ha detto che sarebbe tornato a candidarsi, comunque a partecipare attivamente alla campagna elettorale, ha guadagnato circa il 30%, viaggiava sui minimi, adesso oggi guadagna il 6,31%. C'è sicuramente un effetto, comunque uno la pensi politicamente, della presenza di Silvio Berlusconi nell'agone politico. Oggi non si segnalano motivi particolari, c'è anche un effetto della trimestrale media, se te ne parleremo comunque nel corso dei mercati. Bene Azimut, più 4%, Finmeccanica più 3,60, Pirelli più 2,90, Intesa più 2,30, Fiat più 2,1, Lottomatica più 1,90, Mediobanca più 1,80, Estimac Electronics più 1,5, come Saipem e il Banco Popolare l'1% lo guadagna Enel Green Power. Diasorin meno 6,40, Atlantia meno 3,50, Salvatore Ferragamo meno 1,40, Popolare Emilia Romagna meno 1,20, TOZ meno 1,1, Telecom meno 0,90, Terna meno 0,90%. Dice un ascoltatore al 349-238-6666, è diverso dichiarare e non poter pagare e non dichiarare, si ha ragione, in un caso è un'evasione vera e propria, nell'altro caso uno dice io vorrei pagare ma non posso farlo, in questo caso perché non mi pagano le ASD, ha assolutamente ragione, nell'altro chiedo venia se è sembrata esserci un po' di confusione su questo, sono due casi molto diversi. Andiamo avanti con le altre notizie. Non c'è crisi in Cina, perlomeno nell'export. È volato a dicembre, le esportazioni cinesi a dicembre hanno fatto più 14% rispetto a un anno prima. Novembre era stato un mese abbastanza deludente per la Cina, più 3%. Pensate però che per tutto il 2012, preso tutto l'anno, il surplus, l'avanzo commerciale, cioè quanto resta tra la differenza tra quanto esporti e quanto importi, il saldo è positivo per la Cina ed è positivo per 231 miliardi di dollari, cioè la differenza tra quanto la Cina esporta e quanto la Cina importa è a vantaggio delle esportazioni cinesi per 231 miliardi di dollari, il 48% in più rispetto all'anno prima, a dimostrazione che in intere aree enormi del mondo la crisi non c'è più. C'è stata poco nel 2009 e la crisi vera si sente qui in Europa, particolarmente nell'area euro, forse anche per qualche misura prociclica, quindi che l'ha aumentata, che abbiamo preso su suggerimento anche dei tedeschi, ma non voglio essere polemico. Una buona notizia invece arriva sui prezzi alimentari a livello internazionale, perché la FAO, che è l'organizzazione dell'ONU che si occupa della nutrizione del pianeta, insomma, ha segnalato un calo del 7% nei prezzi alimentari nel 2012 rispetto al 2011. Nel caso specifico scende tantissimo lo zucchero, meno 17%, i latticini meno 14%, gli oli meno 10%, anche in calo, sebbene in maniera più modesta, la carne meno 1,1 e i cereali meno 2,4%, ma parliamo di, al di là forse della carne, di beni di primissima necessità nei paesi in via di sviluppo, e quindi la notizia in questo senso è buona. Dell'asta dello spread italiano abbiamo già detto, ne parleremo più avanti, e anche delle dichiarazioni di Barroso, così come dei non prestiti o non prestiti alle imprese. Ancora due notizie per quello che riguarda l'Italia. Il numero uno, Ragnetti, il 12 di gennaio scade il lock-up di Alitalia, quindi il patto che obbliga i soci a stare assieme. Dicevo, il numero uno dell'Italia, Ragnetti, ha detto sull'azienda c'è una propaganda di carattere pre-elettorale e ha giudicato gravissima la chiusura del fast track, quindi quella corsia privilegiata per chi prende il volo Roma-Milano, che è una cosa importantissima come attività d'affari per l'Italia, la chiusura a Roma della corsia privilegiata, che va ad avvantaggiare ancora di più la ferrovia a quel punto, perché se nemmeno risparmi sul check-in e sull'ingresso in aeroporto è chiaro che ti converrà sempre di più il treno. Volete sapere ancora dell'imprenditore che ha evaso il fisco, che, diciamo, che ha dichiarato non posso pagare il fisco perché mi devono ancora dare i soldi le ASD. Lui si chiama Paolo Guerra, sarà nostro ospite nella seconda ora del programma. Non ha versato 180.000 euro di IVA perché vantava crediti per le forniture ad alcune ASD per 1.700.000 euro. Ora, questo è un programma che difende da sempre la legalità, ma voi mi dovete dire in quale paese tu devi essere obbligato a versare 180.000 euro di IVA sapendo che aspetti 1.700.000 euro dalle amministrazioni pubbliche. Non sei una banca, le banche non te li danno. Allora, che cosa deve fare un imprenditore? E adesso una buona notizia prima di passare a cos'è questa crisi, perché in Sicilia il giudice del lavoro ha rigettato il ricorso. Ricordate la vicenda delle assunzioni nell'ufficio stampa siciliana? 21 giornalisti, tutti con la qualifica massima di caporedattore all'ufficio stampa, un costo folle, nessuno che faceva niente, non ce l'abbiano i colleghi, ma 21 caporedattori in un ufficio stampa non si sono mai visti. Dicevo, hanno fatto ricorso, perché no? Per fortuna il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, Gianfranco Pignataro, l'ha rigettato. Loro hanno fatto ricorso contro la decisione del nuovo governatore Crocetta, che ha detto basta, interrompiamo questo rapporto di collaborazione, tutti a casa. Hanno fatto ricorso, l'hanno perso, mi sembra una buona notizia, perché non è che il lavoratore quando fa ricorso abbia sempre ragione, soprattutto se avevi 21 capi redattori per l'ufficio stampa della Regione Sicilia che aveva altri dipendenti. Non me ne frega nulla se sono colleghi, io non sono una casta, non me ne frega nulla delle caste. Bravo il giudice, almeno si capisce che ogni tanto anche i tribunali del lavoro valutano non solo e non sempre il lavoratore come solo ed esclusivamente vittima. Un applauso al giudice, vai! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi! E si torna alla nostra rubrica Ma cos'è questa crisi, perché due notizie le abbiamo sulla crisi degli altri, quella che non vivono. Da un lato abbiamo un record di vendite della Rolls Royce, non certo in Italia e neanche nell'area euro, ma il record della Rolls Royce è controllata dal gruppo BMW, ha venduto 3.538 esemplari, la maggior parte li ha venduti in Cina, pensate un po', e negli Stati Uniti, il paese è tornato al top nelle vendite. Anche la BMW, che pure lei non fa macchine così economiche, alcune serie sono assolutamente abbordabili, però sto dicendo, stiamo nella fascia alta del mercato, beh, anche la BMW ha avuto un 2012 a livello mondiale da record, a dimostrazione che la ricchezza c'è, continua ad aumentare in certe aree del pianeta. 1.850.000 veicoli, più 10% rispetto all'anno precedente. E insomma, sono cose che fanno riflettere, perché sembrano venire da un altro pianeta, dal pianeta delle cronache marziane, e invece c'è intere parti del globo che continuano a crescere a tassi elevatissimi, e le imprese italiane che ce la fanno, lo ricordiamo molte volte, sono quelle che si legano proprio a queste aree geografiche: Brasile, Russia, India, Cina, ma anche Indonesia, anche Messico, e quindi intere aree o quasi continenti. Adesso però il tema, torniamo all'Europa, a questa valle di lacrime in cui la recessione morde. Oggi intervento del, per me, mitico Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea a Francoforte. Primo intervento della BCE, tassi invariati allo 0,75%, 349-238-6666 per i vostri sms e poi Facebook per chi vuole utilizzare il computer e non il piccione. Vai. Based on our regular economic and monetary analysis. Sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il tasso di inflazione è sceso nei mesi scorsi come previsto e ci attendiamo che cali sotto il 2% nel 2013. Le pressioni a rialzo sui prezzi dovrebbero risultare contenute. Le attese circa l'inflazione per l'area euro restano saldamente ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. La debolezza economica nell'area euro è attesa anche nel 2013. Gli squilibri finanziari e non finanziari e una persistente incertezza continueranno a zavorrare l'attività economica. Verso la fine del 2013 è attesa una graduale ripresa. In particolare, la nostra politica monetaria accomodante, insieme a una maggiore fiducia dei mercati finanziari e a una ridotta frammentazione, dovrebbero farsi largo nell'economia reale. Inoltre, dovrebbe rafforzarsi la domanda globale. Infine, la decisione sui tassi è stata unanime. Lo dico. Quanto mi piace Draghi quando parla in inglese. E comunque inflazione attesa sotto il 2% nel 2013, una crescita appunto debole, una ripresa graduale, gradualissima sempre nell'anno in corso. Ci sono miglioramenti, dice Draghi. A me Draghi sembra veramente l'unico tecnico che ha il polso della situazione più di molti politici, perché insomma, invece di tante cose dice i miglioramenti ci sono, ma non si vedono nell'economia reale. Non si vedono, ci sono in borsa, ci sono sugli spread, ma ancora non si vedono nell'economia reale. E poi aggiunge: non stiamo pensando ad un'uscita delle misure straordinarie. Come dire, attenzione a chi stia immaginando che le misure che ho preso a luglio e che hanno diciamo fregato e anche abbattuto la speculazione contro l'euro, chi sta immaginando che io le voglia sospendere, si sbaglia, le continuerò a mantenere queste misure finché sarà necessario. We have signs that fragmentation is being gradually repaired. Ci sono segnali che la frammentazione dell'eurozona sta migliorando gradualmente, ma questo non si è ancora trasmesso all'economia reale, che continua a essere debole anche se vediamo miglioramenti negli indici di fiducia. Tuttavia, l'andamento dell'economia reale continua ad essere quello che abbiamo delineato nelle nostre previsioni un mese fa. Al momento non stiamo pensando a un'uscita dalle misure straordinarie e pensiamo che ciò avverrà quando il sistema e l'economia saranno pronti. Notiamo ancora segnali di frammentazione significativa nell'area euro. E per definire un punto di svolta, bisognerebbe osservare altri fattori, oltre alla stabilizzazione dei mercati finanziari. Bisognerebbe notare segnali di ripresa che sì, abbiamo previsto, ma verso fine anno. Bisognerebbe che ci fosse un generale rafforzamento dell'economia e le nostre previsioni per la stabilità dei prezzi non sono cambiate. Quindi non c'è ragione di un'uscita dalle misure straordinarie. Quindi non si facciano illusioni gli speculatori e chi specula contro l'euro. Alessandro Merli, in collegamento da Francoforte, corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. Allora Alessandro, tassi invariati, questo lo sapevamo. Perché Draghi ha dovuto precisare, guardate che non stiamo pensando di sospendere le misure straordinarie? Circolava voce o c'era già qualcuno che iniziava a volteggiare di nuovo sopra l'euro? Ma gli è stata fatta una domanda non sorprendentemente da parte tedesca, perché i tedeschi sempre preoccupati che queste misure straordinarie possano poi generare inflazione, vedono già il momento in cui bisognerebbe uscirne. In realtà queste misure non hanno ancora finito di spiegare i loro effetti e quindi Draghi ci ha tenuto a precisare questa cosa. Dall'altra parte però è anche sembrato di capire che non avendo colto l'occasione di abbassare i tassi a dicembre, quando la BCE ha dato quel taglio molto forte alle previsioni sia di crescita che di inflazione, a questo punto i tassi è molto probabile che rimangano fermi, a meno che non ci sia un deterioramento improvviso dell'economia. Ecco, tra l'altro Draghi è sembrato, diciamo, aumentare, rafforzare il tuo ragionamento nel dire anche, attenzione, l'inflazione è attesa sotto il 2% nel 2013, quindi anche le vestali dell'ortodossia tedesca dell'inflazione, quindi della Banca Centrale Europea che deve occuparsi solo di inflazione, possono stare tranquille, no? Non solo, addirittura nelle previsioni fatte a dicembre dalla BCE si parla di un'inflazione del 2014 all'1,4%. Ricordiamoci che si parla di solito di obiettivo della BCE al 2%, in realtà l'obiettivo della BCE è, come sappiamo, è al di sotto ma vicino al 2%. Allora, se si parla di andare l'anno prossimo all'1,4, forse non siamo più così vicini e diciamo che l'economia magari sta rallentando più di quello che dovrebbe rallentare, però non sembra che a questo momento la BCE voglia assumere su di sé questo compito di far ripartire l'economia. Sembra dire Draghi: noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso gli altri facciano la loro. La ripresa della crescita dipende in gran parte dalle misure strutturali che ha riconosciuto in parte tutte prese, ma in parte ancora sono di là da venire. Più competitività, più liberalizzazioni, questo è il problema. Certo. Un'ultima domanda, Alessandro, riguarda invece il commento su ci sono dei migliori segnali che le frammentazioni nell'eurozona stanno migliorando, ma questo non si vede nell'economia reale. Come dobbiamo leggere? Cioè, sembra più realistico di molti analisti, di molti economisti, Draghi. Sì, Draghi ha fatto un quadro abbastanza ottimistico della stabilizzazione dei mercati finanziari, al tempo stesso ha riconosciuto che questi miglioramenti non si stanno trasmettendo all'economia reale. Anche qui Draghi sembra dire noi abbiamo dato il denaro alle banche quando le banche erano la corda al collo perché non riuscivano a raccogliere, abbiamo fatto i ribassi dei tassi, abbiamo messo a disposizione l'OMT, adesso non chiedeteci di più, però capiamo che l'economia reale ha un problema molto, molto serio, e però appunto dal suo punto di vista deve essere risolto dall'azione dei governi. Grazie Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte. Mentre vedo che alcuni dicono ma come neanche Draghi vi piace, allora c'è chi dice ma come lei pensa che l'inglese di Draghi sia buono, ma Draghi ha mille schede in armadio, ma Draghi era in Goldman Sachs, ma insomma io dico una cosa, possiamo giudicare, io capisco che lo sport più praticato in questo paese sia distruggere chi emerge, ma possiamo almeno riconoscere che se non fosse intervenuto Mario Draghi a luglio, forse la Spagna e anche l'Italia in questo momento avrebbero dovuto chiedere aiuto con una situazione dei conti pubblici disastrosa e lo spread sarebbe ancora 550, il rischio di non tenuta dell'euro sarebbe stato fortissimo, che è riuscito ad imporre ai tedeschi una cosa che i tedeschi mai avrebbero pensato di accettare, con anche un po' di furbizia, che non è risultato schiavo della Bundesbank o comunque molto vicino della Bundesbank come i suoi predecessori che sembravano prendere ordini direttamente dalla banca centrale tedesca. Secondo me si può dire, è un italiano che ci fa onore anche con il suo inglese, non siete mai contenti? È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua. Comunque, vabbè, al di là dell'inglese di Draghi, adesso c'è la borsa, ha chiuso bene Milano, più 0,70%, di nuovo la migliore in Europa, tra le borse principali, più 0,46% Francoforte, Parigi, scusatemi, meno 0,46% Parigi, meno 0,20% Francoforte, meno 0,10 Londra. Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera. Ti piace l'inglese di Draghi? Come, scusami? Ti piace l'inglese di Draghi? Molto. Ma l'inglese? L'inglese di Draghi o Draghi tutto? L'inglese. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo della borsa, bene, oggi più 0,70%, in evidenza Mediaset più 7,20, Azimut più 4,66, ma bene tutte le banche, Intesa San Paolo più 2,90, Banco Popolare più 2,40%, Mediobanca più 2,30 e ancora Popolare di Milano più 1,60, Monte dei Paschi più 1,40, Unicredit più 1,20%. Di negativa, pesantemente negativa, di Assorin meno 6,34%, Atlantia meno 3,5%, TOZ meno 1,5%, Ferragamo meno 1,20%, Terna meno 0,70%, Mediolanum meno 0,60%. Allora, Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere sulle 24 ore, di nuovo buonasera. Buonasera. Mediaset. Partiamo sì da Mediaset, più 7,2% come dicevi, ma è arrivata a guadagnare il 9%. Quello che impressiona sono i volumi, è passato di mano il 5% del capitale, siamo ovviamente molto oltre la media giornaliera con 60 milioni di pezzi scambiati. C'è da dire, ed è interessante, che il titolo dal 10 dicembre, quando cioè Silvio Berlusconi ha annunciato che si sarebbe presentato alle elezioni politiche, ha guadagnato quasi il 40%, ha recuperato parecchio, quasi il 68% dai minimi storici che aveva toccato a novembre 2012. Quindi diciamo che è un titolo che è sicuramente soggetto di ricoperture in questo momento, è un titolo su cui molti erano corti nei portafogli, e poi c'è questa, diciamo, fascinazione politica di cui Mediaset ha sempre o beneficiato o sofferto. Sì, questo è fatto bene a ricordare in un senso o nell'altro, cioè quando Silvio Berlusconi scende, si candida, il titolo guadagna; quando esce dalla politica il titolo perde. Questo al di là poi delle valutazioni che fa il mercato sul bilancio di Mediaset. Ancora invece su Ansaldo, la telenovela ormai della cessione di Ansaldo Energia, il titolo su Finmeccanica, scusatemi, soprattutto più 3,93% Finmeccanica. Sì, è proprio come dici tu, una telenovela, perché il titolo a fine anno andava giù perché la vendita di Ansaldo Energia sembrava slittasse dopo le elezioni. Adesso sono un paio di sedute che è tornato a risalire, perché invece questa vendita appare di nuovo più vicina. Il fatto è che doveva essere già stata venduta fondamentalmente Ansaldo Energia nel 2012, quindi prima sarà venduta e più il mercato lo apprezzerà. Oggi indiscrezioni parlano di questa lettera che gli advisor avrebbero inviato agli interessati per presentare le offerte vincolanti entro il 23 gennaio. Si aspettano novità precise, intanto il titolo comunque segue i rumors più che altro. Bene Steam Microelectronics, era un po' di giorni che la vedevamo più appannata, e invece più 2,40%. Qui c'è notizia su Nokia, se ho capito bene. Esatto, oggi Nokia, che è il maggior cliente della società italo-francese di semiconduttori, ha preannunciato conti superiori alle stime per il quarto trimestre 2012 per la divisione Devices and Services, che è la divisione principale di Nokia. Il titolo del gruppo finlandese è arrivato a guadagnare il 14% in borsa. I dati definitivi di Nokia arriveranno il 24 gennaio. Comunque, per questa divisione il margine operativo è previsto tra 0 e più 2% negli ultimi tre mesi dell'anno, mentre prima ci si aspettava un calo del 6%, quindi per un gigante come Nokia è una notizia decisamente positiva. Ancora su chi invece ha perso, citavamo Diasori, meno 6,34%. Sì, oggi c'è stato un report di Intermonte che ha tagliato il giudizio da outperform a neutral, ma a parte questo, quello che diciamo ha interessato il mercato è che Intermonte ha sottolineato come non ci siano ulteriori spazi di crescita per un titolo che è cresciuto del 60% nel 2012, in questo momento quindi viene giudicato adeguatamente valutato, non può crescere molto di più, e quindi sono scattate un po' di prese di beneficio sulle azioni. Ancora Telecom un po' in ripiegamento dopo il balzo, meno 0,60%. Telecom Italia Media, qui torniamo a un'altra telenovela. Esatto. Telecom ieri era salita tantissimo su queste indiscrezioni, su queste ipotesi di rete paneuropea, ipotesi poi un pochino raffreddate, comunque oggi perde uno 0,6%. Invece Telecom Italia Media a mattinata guadagnava oltre un punto percentuale, in chiusura siamo sul mezzo punto percentuale di guadagno. Qui le indiscrezioni di stampa sulla vendita di Telecom Italia Media parlano oggi del possibile lancio di un'OPA. Questo chiaramente potrebbe piacere al mercato. I soggetti interessati, lo ricordiamo, sono il fondo Clessidra e Cairo Communication, ma anche qui è una telenovela, nel senso che si aspettano novità e decisioni, perché anche questa era una vendita che era stata annunciata molto tempo fa e di fatto non si è ancora conclusa. Allora, ancora tra i titoli migliori e peggiori in assoluto, Crespi più 34,4%, D-Mail più 28,5%, KR Energy più 22%, Montefibre più 16%, Unione Alberghi Italiani più 11%, Nokia, come ricordavamo, più 10,63%. Tra i peggiori, oltre a Diasorin, che è la peggiore in assoluto oggi, con un meno 6,30%, SNAI meno 4,90%, Sintesi meno 4,40%, Atlantia meno 3,5%. Media Contact meno 2,80%. Segnalo tra chi perde appunto anche Atlantia meno 3,50, Tods meno 1,50, Ferragamo meno 1,20, Terna meno 0,70, euro su dollaro a 1,32,14. Grazie a Chiara Di Cristoforo, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso c'è il traffico. Strade in diretta. Buonasera, i soliti spostamenti pendolari attorno alle grandi città, questa sera condizionati anche dalla pioggia al centro-sud sull'autosole, si incontra coda verso Roma per un incidente tra Fabro ed Orvieto. Sulla 13 Bologna-Padova, coda in direzione Bologna per un veicolo fermo tra la diramazione Padova-Sud e Terme Euganee. A Roma è trafficato sia il raccordo anulare che il tratto urbano della 24, dove ci sono code nelle due direzioni. In città ricordiamo oggi il secondo giorno di targhe alterne, fermi i veicoli con targa pari sino alle 20:30. Per ora è tutto, torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, parliamo adesso di temi europei, ma non di Mario Draghi, abbiamo già lungamente parlato, sarà anche l'occasione per rifare il punto, ma per una cosa che è successa e che ha diciamo, lasciato perplessi molti. Parlando al Parlamento europeo, il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha detto tante cose, ha detto la disoccupazione nell'Unione Europea è drammatica, la situazione di Cipro è grave quanto quella greca, ma poi ha detto una cosa che ha fatto il giro dei siti, delle agenzie di tutta Europa. Bisogna ritrovare la dimensione sociale dell'unione economica e monetaria, con misure come il salario minimo in tutti i paesi della zona euro. Altrimenti perderemo credibilità e approvazione della classe operaia, per dirla con Marx. Sì, forse ci stava meglio l'internazionale, ma va bene anche l'inno russo. Ora, tutto bene, a parte che il salario minimo, sì, c'è in alcuni paesi, bisogna vedere quanto minimo è questo salario, perché sennò diventa anche un elemento di poca flessibilità e produttività. È strano sentire un presidente dell'Eurogruppo che parla di classe operaia. Ci sono gli operai, ma ci sono gli impiegati, ci sono gli artigiani, i commercianti, cioè la classe operaia è una cosa che ricorda più Pellizza da Volpedo, anche se quelli erano contadini. Professor Gustavo Piga, docente di politica economica all'Università di Tor Vergata, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, lei me lo chiede, è uno dei pochi che me lo chiede sempre. Bene, grazie. Che devo fare? Bravo, è una questione di vecchia educazione. Allora, professor Piga, l'ha sorpreso Juncker citare la classe operaia come Marx? Intanto sul salario minimo c'è una letteratura estesissima, mi ricordo quando studiavo in America, perché lì lo usano e non c'è una forte evidenza empirica, quindi non entro non si sa se è troppo vantaggioso, se è troppo poco, se è troppo costoso. Mi fa piacere sentire sicuramente la parola sociale in bocca delle autorità europee. Mi sembra che però denoti una giusta preoccupazione per le dinamiche che stanno peggiorando. D'altronde io ho sempre detto, mi sembra che lei è sempre stato d'accordo con me, che il vero il problema, se abbiamo uno spread basso, per esempio, io sono sempre stato felice dello spread basso, ho sempre pensato che fosse dovuto sia a Draghi che alle belle notizie che ci vengono dall'America, perché ogni volta che ci viene una bella notizia dall'America vuol dire che il nostro export può ricominciare a tirare, che è anche un segno di debolezza, perché vuol dire che dipendiamo soltanto da quello che succede nel resto del mondo. Però ho sempre pensato che lo spread basso non ci tarava, è condizione necessaria ma non sufficiente per tirarci fuori dai veri guai. Perché? Perché semplicemente con uno spread basso, quando la gente non vede un futuro radioso davanti a sé, anche se il costo del denaro scende, la gente non domanda, gente, intendo le famiglie o le imprese, non domandano più prestiti e quindi l'attività economica non riparte. Quello che veramente serve è evitare il fatto che le tensioni sociali arrivino ad un punto tale, anche in un solo paese, perché poi la catena scoppia con un solo paese, questo momento Grecia e Portogallo. Se salta la Grecia e salta il Portogallo, noi saltiamo anche noi italiani, anche se siamo 10 volte più bravi dei portoghesi e dei greci. E evidentemente i numeri che vengono fuori da Grecia e Portogallo, io parlo spesso con degli amici portoghesi e degli amici greci, sono dei numeri che devono spaventare tutti. E tra l'altro, diciamo la verità, la Merkel è spaventatissima da questi numeri, tant'è che senza ammetterlo, perché porterebbe via consenso elettorale, gli aiuti ai greci, zitti zitti, gliel'hanno dati perché i rinvii sono stati fatti, quando tutte le minacce, se non vi adeguate adesso non sarà più tempo per rimanere nell'area dell'euro, poi di fatto tutte queste scadenze sono saltate, anche se mai esplicitamente, ed è proprio qui il problema, che i cittadini greci, esattamente come noi, questo aiuto implicito non lo vedono, vedono terribilmente la recessione, e con la recessione qual è il primo capro espiatorio con cui se la prendono? È ovviamente il capro espiatorio, e in parte giustamente, dell'Europa, sì. E quel giorno che 10 cittadini greci saliranno, ne abbiamo parlato tante volte, sfonderanno le porte del Parlamento europeo e prenderanno in ostaggio il primo ministro greco, lì lui non può più prendere l'aereo a Bruxelles, perché quando va a Bruxelles ogni volta poi il primo ministro greco si adegua a quanto gli dicono, sta lì ostaggio e andrà a una radio e dichiarerà a tutti che la Grecia, perché ha una pistola puntata alla fronte ma una pistola vera, la Grecia esce, e questo ovviamente ci deve preoccupare. È partito, cioè, mi ha fatto uno scenario apocalittico alla fine, ma comunque sono d'accordo adesso al di là del... Scusi, sa perché è importante fare lo scenario apocalittico? Non dico che sia lo scenario più probabile, ma se lei dà una probabilità del 10% a questo scenario apocalittico, cioè, di chi aver paura, certo, vuol dire che lei ha creato un contesto sbagliato, perché queste probabilità deve essere praticamente nulla. Anche un 10% lo dobbiamo combattere in tutti, cioè, i modi. È come se un medico ti dicesse: guarda, che se vai avanti così avrai un 10% di possibilità di morire. Nessuno dice: vabbè, chi se ne frega, una su 10 vada avanti così. Se un medico... quando accanto c'è la soluzione giusta per tirare, per uscirne fuori. Ecco, e di quello abbiamo parlato molte volte, Piga. Però sentiamo un passaggio di quello che adesso possiamo chiamare tranquillamente Tovarish, il compagno Juncker. Perché volevo tornare anche sulla sua frase, perché è vero che il salario minimo, però il salario minimo a me avevano insegnato che era anche un'arma a doppio taglio, perché poteva rendere assolutamente rigido il mercato del lavoro, e allora un salario minimo ce l'abbiamo, ci sono i contratti nazionali in Italia per le categorie, però attenzione, dopodiché mi lascia un po' perplesso Juncker che parla dell'approvazione della classe operaia, perché... Io più che classe operaia, qui vedo il malcontento di quello che Marx avrebbe chiamato il sottoproletariato, visto che cita Marx Juncker, e quindi lavoratori precari a 400, 600, 700 euro al mese, persone laureate che fanno o diplomate che fanno lavori molto molto al di sotto per quello che hanno studiato, massa di lavoratori in nero, il mondo del commercio, dell'artigianato che soffre tantissimo nei paesi del sud Europa, soprattutto. Poi ci sono anche gli operai, ma insomma è un po' un limitativo parlare di classe operai, a mio avviso, nel 2012, mi permetto di dire a Tovarish Juncker. Sentiamo però un altro passaggio sulla situazione occupazionale, o meglio disoccupazionale, europea. Je me présente aujourd'hui pour la dernière fois devant vous. Sono qui davanti a voi per l'ultima volta. Non è l'ora della nostalgia, ma dell'azione. Il 2012, in termini di risultati, per la zona euro è stato un anno piuttosto positivo. Abbiamo preso delle decisioni che vedono lontano. Abbiamo stabilizzato la zona euro. Solo un anno fa, molti osservatori, presenti anche qui oggi, pensavano che la zona euro stesse andando verso il fallimento. C'erano, soprattutto nel mondo anglosassone, veggenti che prevedevano che la zona euro nel 2012 sarebbe scoppiata, e invece l'area euro è ancora viva. On estimait que la zone euro en 2012 éclaterait. La Grecia, di cui si era prevista l'uscita dall'euro, è ancora un membro della zona euro e mostra anche un certo vigore sia sul fronte delle riforme che dell'aggiustamento dei conti pubblici. E avec une belle vigueur et de réforme et d'ajustement. Ora, professor Piga, qui c'è però non tanto in Juncker, a mio avviso, ma un'ipocrisia di fondo. Ieri abbiamo commentato per buona parte del programma i dati allarmanti, forse dir poco, incredibili sulla disoccupazione in Europa, nell'area euro, e in particolar modo, l'altro ieri, scusatemi, in particolar modo quella giovanile. Cioè qui siamo e stiamo misurando solo la disoccupazione, non l'occupazione, cioè solo quelli che cercano un lavoro e non riescono a trovarlo. La occupazione misura invece tutti quelli che potrebbero lavorare, quanti su questi riescono veramente a lavorare. È una cosa un po' diversa, perché molti non cercano nemmeno un lavoro, o perché hanno figli piccoli, perché vogliono stare a casa, o perché ritengono di non avere un po', e smettono di cercarlo. Ma insomma, tra chi lo cerca, nei giovani, nell'area euro, in Spagna 56 su 100 sono a casa, in Grecia 57 su 100 sono a casa, in Italia, nuovo record, 37 su 100 sono a casa e in Francia 27 su 100 sono a casa. La Germania è un altro pianeta, solo l'8%. Dicevo, Piga, ipocrisia, perché tutti sono allarmati per questa disoccupazione, ma poi non si vede una misura, e non può certo fare a Mario Draghi la misura per la disoccupazione, lui si occupa di tenere botta, di difendere l'euro, professore. Ma intanto mi veniva in mente che chi sono i nuovi lavoratori, i nuovi operai, i nuovi proletari. Io stavo pensando a un liberale come Einaudi, liberale, non liberista, liberale, che diceva sempre che sul mercato del lavoro, per esempio, ci volevano i sindacati e ci volevano le Confindustrie. E perché quindi diceva che non ci voleva un mercato del lavoro dove le persone non erano fortemente rappresentate? Perché da liberale diceva: non tutti i contratti in cui si entra, tra virgolette, liberamente sono ottimali, perché in molti casi sono presi sotto condizioni di stress e di difficoltà o di potere debole contrattualmente. Lui pensava ovviamente a un piccolo lavoratore di fronte a una grande impresa che alla fine era obbligata a prendere quel contratto perché era l'unico che c'era. E quindi l'Einaudi, davvero liberale, si preoccupava di che non ci fossero delle grandi asimmetrie di potere contrattuale, e oggi nella recessione queste asimmetrie stanno aumentando, il numero di deboli sul mercato stanno crescendo moltissimo, li ha detti lei, insomma i deboli numero uno sono le piccole e medie imprese e i giovani. Si possono fare delle cose per questi anche in un contesto in cui non ci sono un'enormità di risorse? Secondo me si possono fare un'enormità di cose, ricordiamoci che la prima cosa è ovviamente combattere l'austerità, perché tra le tante cose che fa l'austerità, e non lo diciamo, ma il mercato nero continua a crescere, perché la prima cosa che fa un'impresa per cercare di salvarsi è andare sull'illegale, non di chiudere, e quindi tantissime persone in questo momento stanno andando molto di più di prima nell'informale. Ma detto questo, quindi confermando che la lotta all'austerità che poi riduce queste debolezze, io mi sono andato a rivedere gli articoli che annunciavano che è partita la riforma Fornero e che ci sono le famose nuove indennità di disoccupazione, e mica mi ero reso conto che le indennità di disoccupazione, per esempio, sono riservate a coloro che hanno perso un lavoro, cioè non sono riservate a quelli che lo cercano per la prima volta, che probabilmente sono le parti più deboli. E tra l'altro, come li abbiamo trovati i soldi per pagare le disoccupazioni che verranno? Li abbiamo trovati aumentando le tasse alle imprese, quindi non è vero che i soldi non ci sono, i soldi li abbiamo trovati, li stiamo usando nel modo migliore. Io quando feci la proposta a Napolitano e a Monti di dire attenzione, che tornando alla Grecia e ai moti di piazza, i moti di piazza li fanno i giovani, no? Sono i primi a scendere in piazza, quindi dovrebbero. Assolutamente abbiamo bisogno che loro non vogliano scendere in piazza. E avevo detto attenzione, se avete dei soldi e trovateli, dategli un contratto pubblico temporaneo di 1.000 euro al mese, quanto vi costerà? E vi costerà 7 miliardi, 8 miliardi, trovateli, perché i costi di non dare questo tipo di opportunità ai ragazzi, e ricordiamoci che in una disoccupazione i giovani, uno, o si deprimono o vanno a lavorare nel settore informale o nel settore criminale, cioè perdiamo per sempre, ci sono degli effetti che si chiamano di isteresi, cioè di lungo periodo, perdiamo per sempre delle risorse incredibili per il paese. E 5 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, in cui parleremo anche della vicenda dell'imprenditore che è stato assolto per non aver pagato l'IVA perché vantava crediti più che tripli rispetto alla somma, anzi adesso la do con correttezza, dalle ASL, ed è una sentenza importante. Però vorrei concludere anche il ragionamento su quanto ha detto Juncker sull'area euro, fatto con il che stavamo facendo con il professor Gustavo Piga, a cui però poi vorrei chiedere anche qualcosa di questa vicenda tutta italiana. 349-238-6666 per i vostri sms e poi Facebook. quale classe operaia si riferiva Jean-Claude Juncker? Stiamo cercando di capire nella dichiarazione di oggi in cui ha rievocato Marx, ma in realtà a me piaceva molto un aspetto del ragionamento che stava facendo il professor Piga, e cioè attenzione, perché quando devi calcolare i costi sociali di qualcosa non puoi solo dire quanto costerebbe un salario minimo oppure un'iniziativa molto forte verso i giovani, con i tassi di disoccupazione che ricordavo prima, il 57% in Grecia, il 56% in Spagna, il 37% in Italia e il 28% in Francia. Devi anche ricordare quanto ti potrebbe costare un disordine sociale. Ho capito bene il suo ragionamento, Piga? Sì, sì. La questione dei giovani è da mettere indubbiamente al centro, e quindi sì, lei ha ragione. Ecco, mi dica una cosa, poi passiamo invece al caso di oggi dell'imprenditore italiano, ma lei qualche segnale, al di là di Mario Draghi, che ha fatto a mio avviso quello che poteva fare la BCE per fermare le speculazioni sull'euro e rompere questo pensiero unico tedesco, ma qualcosa in Europa si sta muovendo, oppure la Germania è bloccata dalle elezioni di marzo, l'Italia pure, la Francia tentenna, e quindi al di là delle preoccupazioni da anime belle, da demi vierge, si vede poco? Guardi, a livello individuale i dati che sono usciti fuori ieri, dove il risparmio sale e i consumi scendono più dei redditi, significano che la gente comincia a pensare che questa è una recessione permanente, non transitoria, e questa è la brutta notizia. A livello politico, come mi chiede lei, io devo soltanto sperare in due cose quasi congiunte, anche se i tempi sono leggermente diversi. Uno, che quando la Merkel vincerà, come vincerà le elezioni, abbia davanti un periodo di calma piatta in cui può finalmente esprimersi tranquillamente senza preoccuparsi dell'elettorato, e nel contempo devo sperare che chiunque, qualsiasi italiano, vada su a raggiungere il tavolo dei 27, si unisca immediatamente con Hollande, con anche altri leader ma meno importanti di Hollande, e non sto dicendo che questi sono i leader ottimali, ma bisogna creare un'alleanza anti-austerità e discuterne pragmaticamente con una Merkel più tranquilla. Io, se lei mi vuole chiedere qual è la speranza che hai, ma tante speranze tante volte mi sono state distrutte in questi ultimi mesi e anni, le dico che è questa, poi dopo ne troverò un'altra, perché le dico è veramente importante che questa meravigliosa costruzione europea rimanga, nel senso che è bella l'Europa come progetto, non è bella l'Europa che stiamo gestendo in questo momento, ma si può gestire in ben altri modi. Guardi, io mi associo completamente al suo augurio, sia che Angela Merkel abbia a questo punto, non abbia più la pressione del corpo elettorale, possa fare scelte magari anche non così popolari in Germania, ma un po' più lungimiranti per il futuro dell'Europa, e dall'altro che l'Italia prenda una posizione un po' più ferma, ancora più ferma, e dica non si può morire, diciamo, per i risparmiatori tedeschi, e cerchiamo di pensare anche ai consumatori italiani, perché sennò con questi vincoli di bilancio, e solo vincoli di bilancio, nessuna spesa a livello europeo, a mio avviso non ne usciamo. Detto questo, lei è Stopiga, anche direttore della Consip, presidente, mi scusi, degli anni meravigliosi. La Consip è la società che dovrebbe centralizzare e gestire gli acquisti della pubblica amministrazione, no? Beh, l'ho centralizzata io e abbiamo fatto grossi casotti, speriamo che abbiano imparato dai nostri errori e che adesso centralizzino un po' meno, perché uccide le piccole imprese, quindi la Consip serve soprattutto per centralizzare i dati e per fare da benchmark di riferimento, ma se fa gare grandi è un disastro per il territorio. Partecipano solo i grandi. Allora, glielo dico perché c'è un caso in cui un giudice ha preso una decisione molto molto importante e ha detto ha ragione l'imprenditore che non ha versato 180.000 euro di IVA. Perché non li ha versati? Perché vantava crediti da alcune ASL per 1.700.000 euro. Il Tribunale di Milano ha stabilito il principio secondo cui se la pubblica amministrazione non paga i propri debiti verso i fornitori non può poi pretendere, sembra una cosa elementare, che questi, in crisi anche per la mancanza dei soldi che lo Stato non gli dà, debbano versare i soldi allo Stato stesso. Si chiama, con un linguaggio molto economico-finanziario, essere cornuti e manziati. Lui è Paolo Guerra, titolare rappresentante legale della Sintea Plustec di Assago, produce protesi vertebrali destinate agli ospedali. Purtroppo sappiamo che dei 60-70 miliardi che la pubblica amministrazione, 60-70 miliardi, deve dare alle imprese private, quasi il 70% arrivano dalla parte sanitaria, dalla sanità, dalle ASL. La nostra Anna Marino lo ha raggiunto e sentiamo anche il suo livello di disperazione, oltre che i motivi che l'hanno portato a dire: io non pago l'IVA. È finito in tribunale, il giudice, a mio avviso giustamente, gli ha dato ragione. Io non sono affatto un evasore, né personalmente né l'azienda che rappresento. Nella storia dell'azienda, nella mia storia personale, ho sempre pagato tutte le imposte e tasse. Nella fattispecie, la mia azienda, Cinzia Bluestech, si è trovata nelle condizioni di non poter pagare tutte le imposte, perché la pubblica amministrazione in questi ultimi anni è sempre stata in fortissimo ritardo nel pagamento delle fatture della mia società emesse per la vendita di prodotti medicali. Quindi è arrivato al processo ed è stato assolto, perché? Il giudice nella sentenza ritiene che penalmente il fatto non rappresenta reato e non sussistono i termini per una condanna di questo tipo, ecco perché io ho negoziato e ho chiesto alla pubblica amministrazione di poter pagare le tasse dandomi il tempo di farlo. Man mano che recupero i crediti pagherò e sto pagando, per la precisione. Quindi quello che ha evitato lei sono le conseguenze penali per causa, esatto, di forza maggiore e assenza di dolo riconosciute dai giudici, e comunque però le tasse le dovrà pagare. Assolutamente sì. Pagherò le tasse, pagherò gli interessi previsti, in caso se ci sono delle sanzioni pagherò anche quelle. Non esiste la compensazione tra quello che lei deve al fisco e quello che la pubblica amministrazione le deve? Assolutamente no. Questo purtroppo è un tema molto caldo che anche le associazioni industriali continuano a chiedere, ma fino ad ora non è mai successo niente. Quanto deve pagare e quanto doveva la pubblica amministrazione? Come ordine di grandezza siamo nell'ordine di qualche centinaia di migliaia di euro, non so, 400.000, a fronte però di 2 milioni di crediti, per dare un'idea. Quindi 2 milioni di crediti con la pubblica amministrazione. Voi sarete un precedente, secondo lei? Ma io mi auguro che questo può servire a tante piccole imprese che faticano per avere i propri crediti riconosciuti, no, riconosciuti lo sono, ma diciamo pagati. Speriamo di essere un precedente, in questo senso, senz'altro. Chiaramente le difficoltà per la pubblica amministrazione di adempiere ai pagamenti li conosciamo tutti. Il problema, secondo me, che si innesta è che le più danneggiate sono le piccole aziende, che non hanno poi l'accesso al credito, perché, se mi permette una piccola parentesi, fino a qualche anno fa il problema era molto meno sentito, perché il sistema creditizio, quindi le banche, società di factoring e altri intermediari finanziari, in qualche modo rendevano liquidi i fatturati delle aziende, cioè comprando i crediti, anticipando le fatture, facendo questo tipo di operazioni. Purtroppo con la crisi finanziaria, il discorso di Basilea 2, adesso di Basilea 3, eccetera, eccetera, le banche sono un po' ritirate da questo mercato, e quindi il sistema che in Italia più o meno funzionava con un triangolo tra l'impresa che vendeva l'ospedale e una banca o un intermediario finanziario che anticipava i soldi è venuto meno, e le aziende si sono trovate in grossissima difficoltà. Quali sono le conseguenze, diciamo, penali che lei ha evitato? Beh, intanto sicuramente di avere una fedina penale comunque segnata per una cosa che francamente non ritengo di aver commesso e non ritengo che sia reato. Non a tutti è andata sempre così bene, e infatti ne parleremo fra poco con il presidente della comunità di recupero sulle dipendenze, Saman Achille Saletti. Buonasera anche a lei, Saletti. Buonasera a voi tutti e a lei, Bergioni. Allora, però mi dica una cosa piga che poi ci deve lasciare. Ha fatto bene il giudice, cioè vogliamo porre un limite. Qui siamo in un paese in cui contro i 24 giorni della Finlandia, i 35 giorni della Germania, i 64 giorni della Francia, i 47 giorni della Gran Bretagna, da noi si parte da 180 giorni fino a 2 anni per pagare un privato che ha già erogato un servizio. Piga. Ho sentito che bella la voce di questo imprenditore, così bella, degna. Bella. Pensi che parla lui, ma poi dietro ci sono tantissimi lavoratori che grazie alla sua azione e il suo coraggio, no, si sono in questo momento salvati. Certo che ha ragione, io nella mia associazione Viaggiatori in Movimento una delle prime proposte che facciamo per l'Italia è quello intanto del conto unificato, che è un'ovvietà di cui si parla da tempo. Poi c'è questo problema immenso, io oggi stavo a un convegno e ho chiesto a un candidato a un'elezione regionale se la prima cosa che lui annuncerà appena prende il potere è di dire che si adeguerà alla norma che vede i nuovi pagamenti entro i 30 giorni. E lui candidamente ha detto che è assolutamente impossibile farlo entro 30 giorni. Il problema addizionale di tutto questo, di questa non volontà di affrontare il problema che non è stato affrontato quest'ultimo anno, è che con questa legge adesso gli interessi partono davvero e quindi paradossalmente non risolvendo il problema, adesso dal 2013 in poi ci sarà un altro costo ulteriore. Io spero che questi interessi che cominciano a schizzare verso l'alto rapidamente porteranno a far fare a un governo nuovo quello che i governi vecchi non hanno fatto, cioè semplicemente negoziare, parlavamo prima di Europa, con l'Europa, un aumento del debito di mercato, perché tanto questo è debito commerciale che tutti sanno che esiste, e soltanto non viene contabilizzato. Allora facciamo re nudo, facciamo emissioni di BTP, prendiamo questi soldi e diamoli immediatamente a tutti questi imprenditori. Certo salirà il debito sul rapporto sul prodotto interno lordo, ma tanti mercati lo sanno già che sediamo su questa bomba esplosiva dei debiti commerciali. Sì, basterebbe essere molto chiari su questo. È come un'impresa che dovesse comunque pagare una cosa, è inutile far finta che tu non debba pagare, lo dobbiamo pagare. A questo punto emettiamo dei BTP, spieghiamo bene ai mercati che è un'emissione che avrà un effetto anticiclico, quindi positivo sull'economia, perché ridarà soldi all'economia. A me è piaciuto molto non solo la dignità, perché insomma uno che dice intanto ho la fedina penale pulita, beh, alcuna, fatemi essere populista che un po' non lo sono, la classe politica italiana in alcune parti dovrebbe anche imparare dalla dignità di quest'uomo. Uno. Due, mi fanno notare gli ascoltatori che però i soldi per i gruppi politici regionali si trovano sempre, lì i ritardi nei pagamenti non ci sono mai, e va bene, siamo a due con la demagogia. Tre, però, dice l'imprenditore, una volta ancora ci stavamo dentro perché con le banche avevano più facilità a erogare i prestiti, è giustissimo, le banche, dato di oggi la Banca d'Italia, lo ricordavamo in apertura del programma, meno 3,5% a novembre su un anno prima i prestiti delle banche alle imprese. Grazie al professor Gustavo Piga, che con cui è sempre un piacere dialogare, e intanto c'è il traffico, poi Achille Saletti, lei ci racconta invece che ha avuto una vicenda identica come inizio, diametralmente opposta come conclusione, perché se ho ben capito l'hanno anche condannata. 349-238-6666 per i vostri sms e poi Facebook per chi usa il computer e non il piccione. Caso analogo ma con esito completamente diverso, perché anche Saman vantava crediti nei confronti di ASL Ministeri, una comunità di recupero di tossicodipendenti, comunque di persone con problemi di dipendenza, e chiaramente voi ricevete prestato un servizio e avete poi una compensazione con le ASL. Quanti soldi vi devono le ASL, Saletti? Circa 2,5 milioni, però devo fare una correzione. Mi dica. Alla pari dell'imprenditore che ha parlato prima, anche noi siamo stati assolti. Cioè meglio, quindi i giudici a Berlino sono più di uno, almeno, sono due. Almeno due giudici a Berlino. Oggi tre, con quello che ha rigettato il ricorso dei 21 caporedattori dell'ufficio stampa della regione siciliana, che volevano anche essere riassunti. E siamo a tre giudici a Berlino. Detto questo, sono contento, mi scuso, avevo capito male io. Per cui non è vero che lei ha avuto una condanna a 3 mesi di carcere convertita in una multa? Noi avevo avuto un decreto penale di condanna, qui immagino come l'imprenditore mi ero opposto perché ne abbiamo fatto una questione di principio e trovando profondamente ingiusta, perché anche noi non siamo assolutamente evasori, noi lavoriamo alla luce del sole. Il problema della nostra difficoltà di pagamento è legato al fatto che lo Stato per primis non ci paga, pretende le prestazioni da noi, chiede che paghiamo le tasse su quello che fatturiamo, chiede che paghiamo i contributi e poi però non ci paga, perché lei ha detto fino a 2 anni. Io le ricordo che peraltro quando a 2 anni ormai preso per il collo l'imprenditore, noi ci consideriamo imprenditori sociali perché comunque diamo lavoro a 150 persone, quando dopo 2 anni ti prende per il collo ti dice anche sì, però rispetto a quello che mi hai fatturato rinuncia al 5% alle spese legali e questo e quest'altro. Senta, quindi quanto, 2 milioni diceva vi devono le varie ASL? 2 milioni e mezzo. E lei è andato dal giudice perché doveva versare che cosa? Dovevo versare fare un ritardato pagamento dell'IRPEF, perché peraltro io mi ero già messo in trattativa con Equitalia per dilazionare il credito, quindi io stavo già pagando. Poi per un automatismo della legge mi sono trovato appunto con un decreto penale di condanna, erano 87.000 euro. 87.000 euro. E lei che cosa ha sostenuto col giudice? Ho sostenuto con tanto di perizie, di contabili e quant'altro, che eravamo nell'impossibilità nel momento in cui mi è stato ingiunto di pagare, perché stavamo aspettando centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di euro dallo Stato che non ci pagava. Malgrado avessimo fatto i decreti ingiuntivi bloccati dalle varie finanziarie, perché lei, se si ricorda, alcune regioni a un certo punto hanno visto congelati i decreti ingiuntivi degli imprenditori o delle imprese sociali che avevano emesso nei confronti del... cioè, praticamente, io guardi, vorrei fare una metafora forte. Mi dica. Lo Stato è peggio dello strozzino, perché quantomeno lo strozzino i soldi te li dà. Lo Stato non te li dà nemmeno. Vabbè, io su questo non posso essere d'accordo, Saletti, però... c'è chi ci chiede: ma perché voi vantavate dei crediti dalle ASL? Beh, immagino, me lo spiega anche lei, perché non è che io conosca così bene. Perché noi abbiamo forme di accreditamento, noi gestiamo comunità terapeutiche per tossicodipendenti, siamo accreditati presso le regioni, le quali usufruiscono delle prestazioni che noi diamo, siamo come fossimo delle cliniche in pratica, usufruiscono delle prestazioni che noi diamo e ce le devono appunto pagare secondo una tariffa che decidono loro. Noti bene, non decidiamo noi. E quando noi appunto emettiamo la fattura trimestrale o bimestrale rispetto a queste prestazioni che abbiamo dato, loro si prendono appunto da 100 giorni a 2 anni per pagarci. Ma mi scusi, ma quando lei va, perché in questo lei è identico a migliaia di imprenditori e all'imprenditore che prima abbiamo sentito, che ripeto, nella sua dignità mi è piaciuto moltissimo, mi dice: io l'ho fatto non per non pagare, ho sempre pagato, infatti adesso l'IVA la dovrà pagare scaglionata, l'ho fatto perché non volevo la fedina penale sporca, essendo una persona che ancora crede che la fedina penale debba restare pulita nella vita, e non dice che chi se ne frega è colpa dei giudici, ma voglio dire, e riteneva assurdo dover pagare, essere condannato quando aveva una tale massa di crediti che ancora esigeva dallo Stato. Ma quando lei va lì e spiega alla ASL, non so da chi va, da lei, dalla ASL, la regione, ma cosa le rispondono? Che non ci sono soldi, semplicemente che non ci sono soldi. Cioè le stesse regioni che costruiscono nuove strutture, nuovi palazzi della regione, la regione Lazio, mi scusi, la regione Lazio che continua, si ostina a dire che non ci sono soldi, neanche per le ambulanze e le barelle, certo. Diceva negli anni in cui si aumentava, i gruppi regionali si aumentavano a dismisura i loro, negli stessi anni, cioè l'anno scorso e 2 anni fa. Non ci sono soldi, però io le dico una cosa, Barrisoni, rispetto, anche per me la fedina penale è un punto è un punto principale. Chiaro che io mi sono opposto anche perché trovavo profondamente ingiusto essere condannato per una cosa che a mio modo di vedere non stava né in cielo né in terra, però le posso dire un'altra cosa: se io fossi stato condannato, avessi accettato il decreto penale di condanna, avrei dovuto anche abbandonare la presidenza di Saman, per la semplice ragione che in questo paese chi ha una condanna non può più poi contrarre con la pubblica amministrazione. Però può fare il politico. Può fare il politico, ma però il politico bisogna essere appunto... No, vabbè, lasciamo stare, esatto, che... siamo anche in par condicio. Sì, fanno notare molti ascoltatori che nel frattempo... molti direttori di ASL hanno l'autista e l'auto. Adesso io non voglio fare demagogia, a me si tenga anche l'autista, oddio, non sempre, però l'autista non lo capisco proprio, e l'auto blu, ma paghino i servizi che vengono erogati. Vabbè, e mi diceva, per concludere, che nemmeno i decreti ingiuntivi sono serviti? No, guardi, questa è una storia, poi, come dire, ci fa vivere in un mondo veramente irreale. E le regioni, quelle di cui quando parlava l'imprenditore mi ha preceduto, che a un certo punto si poteva basarsi sulle banche che praticamente accedevi il credito, le banche a un certo punto, con alcune regioni, diciamo dal Lazio in giù, hanno iniziato anche a non accogliere più le fatture, a non prendere più le fatture. E le stesse regioni, che sono quelle che hanno maggior disavanzo, nelle ultime tre finanziarie hanno congelato praticamente tutte le azioni giudiziarie nei confronti della pubblica amministrazione. Per cui lei si trovava con un decreto ingiuntivo già emesso dal giudice, pronto ad aggredire il conto corrente dell'ASL o della stessa regione, e non si poteva più far nulla, sapendo che poi dopo sei mesi il decreto ingiuntivo sarebbe decaduto, quindi anche le spese legali buttate dalla finestra. Grazie, grazie anche a Achille Saletti, presidente della comunità, delle comunità Saman. Grazie a voi, arrivederci. Magari sarà anche questo un tema della campagna elettorale, non lo so, io me lo auguro, perché per tornare e chiudere con Draghi, questo è forse il mondo reale, no? Ma vi sembra possibile, dico, siamo una radio che difende da sempre la legalità, ma vi sembra possibile arrivare nelle situazioni di questi due imprenditori che sono solo emblematiche di migliaia di altri imprenditori? Immagino che ne parleranno anche stasera nei vari dibattiti politici, sarà il tema centrale questo, no? Come ritornare i soldi agli imprenditori che li devono avere, come avere politiche procicliche, immagino che sarà così, domani vedremo. Intanto buona serata da Sebastiano Barisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.